Non è forse assurdo che mentre i cavalli, gli uccelli e gli altri animali corrono nelle praterie e si alzano in volo dall'erba, felici del loro proprio ornamento, la criniera del cavallo, la tinta naturale, il piumaggio variopinto, la donna invece, come se fosse di natura più incompleta delle bestie, crede di essere a tal punto priva di bellezza da avere bisogno di una bellezza non sua, che si compra e si dipinge. Le retine di vario genere, le trecce ricercate e stravaganti, nonché le migliaia di diverse fogge di capelli e i costosi apparati di specchi, tutte cose con cui esse si addobbano per prendere in trappola gli uomini che, come bambini privi di ragione, si lasciano affascinare dalle forme esteriori. Ecco il capolavoro di queste donne che non sanno arrossire. A chiamarle cortigiane non si sbaglierebbe affatto costoro che trasformano il loro volto in una maschera. Ma a noi il Logos raccomanda di non guardare alle cose visibili, bensì alle invisibili. Quelle visibili, infatti, sono caduche, mentre le invisibili sono eterne. Ciò che poi addirittura va al di là dell'assurdità è che per questa loro esteriorità contraffatta hanno escogitato anche gli specchi, come se si trattasse di riflettere qualcosa di nobile e di virtuoso, mentre questa loro frode sarebbe piuttosto da nascondere con una copertura. Infatti, neppure al bel Narciso, come narra il mito greco, riuscì di diventare spettatore della propria immagine. Mosè prescrive agli uomini di non farsi alcuna immagine che rivaleggi in arte con Dio. Come potranno allora queste donne ragionevolmente produrre immagini di se stesse guardandosi allo specchio e ricopiandosi, falsificando così il loro volto? Anche il profeta Samuele, quando fu inviata ad ungere re uno dei figli di esse, vedendo che il maggiore fra i ragazzi era bello e alto, se ne rallegrò e mise mano all'olio per l'unzione. Ma il Signore, dice, gli parlò: non guardare alla sua apparenza e alla sua altezza, perché io lo respingo. L'uomo, invero, guarda agli occhi, il Signore guarda al cuore. E quindi non unse il giovane bello nel corpo, ma quello bello nell'anima. Se dunque il Signore stima la bellezza naturale del corpo da meno di quella dell'anima, che cosa penserà della bellezza artificiale, lui che rifiuta totalmente ogni menzogna? Noi infatti camminiamo nella fede, non nella visione. Assai chiaramente, attraverso l'esempio di Abramo, il Signore insegna a colui che è alla sequela di Dio a disprezzare la patria, i parenti, le proprietà e ogni ricchezza. Per questo rese Abramo forestiero e lo chiamò anche amico, poiché aveva disprezzato i beni che aveva in patria. Era infatti di nobile stirpe e molto agiato. Fu con 318 suoi servi personali, ad esempio, che sconfisse e catturò i 4 re che avevano fatto prigioniero Lot. Solamente Ester troviamo che si adornò rettamente. Questa donna si imbellettò in senso spirituale per il suo re, ma quella sua bellezza era il riscatto per il popolo che veniva massacrato. Le mollezze del lusso hanno provocato la guerra di Troia e altre catastrofi. Che l'imbellettarsi renda le donne prostitute e gli uomini effeminati e adulteri ce lo testimonia il poeta tragico quando racconta: Paride, che giudicò le dee, venne dalla Frigia a Sparta, come narra il mito argivo, vestito con abiti smaglianti e splendido per l'oro e per il fasto barbarico. Riamò colei che lo amava, Elena, e rapitala andò agli stazzi dell'Ida, profittando dell'assenza di Menelao. O bellezza adultera, il lusso barbarico e l'effeminata mollezza hanno stravolto la Grecia. Un vestito, un ornato, una bellezza splendente hanno distrutto la casta sobrietà spartana e l'amore barbarico per il lusso hanno rivelato essere la figlia di Zeus, una prostituta. Costoro non avevano un pedagogo che recitesse le loro brame e che dicesse: non commetterai adulterio e non bramerai e non camminerai con i tuoi desideri verso l'adulterio e non infiammerai le tue brame con l'amore del lusso. Quale triste fine è sopraggiunta loro a causa di queste cose, e quanti mali hanno dovuto gustare coloro che non vollero frenare il loro egoismo. Due continenti sono stati stravolti da questi piaceri lasciati a se stessi, e un barbaro giovinetto ha sconvolto ogni cosa. La Grecia intera si imbarca e il mare stesso su cui si affacciano i due continenti è troppo angusto. Una lunga guerra si accende, scoppiano battaglie violente e le piane si riempiono di morti. Il barbaro fa oltraggio alla flotta greca. Il sopruso regna ovunque, mentre lo sguardo di quel Zeus, cantato dai poeti, si rivolge verso i traci. Le pianure barbariche bevono nobile sangue e il corso dei fiumi è impedito dai corpi dei morti. Ci si percuote il petto tra i lamenti e il lutto consuma la terra. Tutte vacillano le basi e le vette dell'Ida, ricca di fonti, la città dei Troiani e le navi achee. Dove fuggiremo, Omero? Dove staremo al sicuro? Mostraci una terra che non sia sconvolta. Non toccare le redini, o fanciullo inesperto, non salire sul carro, tu che non sai guidarlo. Il cielo è contento di due soli cocchieri, dai quali il carro di fuoco del sole è guidato e sospinto. In questo modo anche la mente è guidata dal piacere, e l'integrità dell'intelletto, se non è disciplinata dal logos, sprofonda nella dissolutezza, e la ricompensa del suo fallo è la rovina. Un esempio ne sono gli angeli che abbandonarono la bellezza di Dio per una bellezza marcescente e così dai cieli caddero sulla terra. Anche i sichemiti furono puniti quando caddero in fallo facendo oltraggio alla Vergine Santa. La loro punizione fu il sepolcro e il ricordo di questo castigo ci è di insegnamento e di guida alla salvezza. Contro gli uomini che si imbellettano. Contro gli uomini effeminati che si radono e si depilano. A tal punto è giunto il molle lusso che non soltanto il genere femminile è malato di questo zelo di vanità, ma anche gli uomini agognano questo morbo. Essi infatti non si astengono dall'imbellettarsi e così perdono la salute. Riducendosi a una mollezza estrema diventano come donne e facendosi radere si rendono ignobili e simili a prostitute. Indossando vesti splendenti, masticano la gomma e odorano di profumo. Che si può dire al vederli? Quel che direbbe il fisionomista, il quale dai loro modi capirebbe subito che si tratta di adulteri e pervertiti, a caccia di piaceri carnali da ambo i sessi, odiatori dei peli, uomini senza peli, che hanno in orrore la bellezza virile e si acconciano le chiome come donne. Vive questa gente perversa con un'audacia sacrilega e compiono empietà e scelleratezze, come dice la Sibilla. È a motivo di questi effeminati che le città sono piene di depilatori, barbieri e rasatori. Ovunque vengono allestite e aperte botteghe dove gli esperti di questa dissolutezza da prostitute incassano pubblicamente soldi in gran quantità. Gli uomini vi si sottopongono a ogni trattamento per farsi depilare con la pece o farsi strappare i peli, senza vergognarsi di fronte ai passanti che li vedono e neppure di fronte a se stessi e alla propria virilità. Tali dunque sono questi appassionati dei più ignobili trattamenti che con violenti tiramenti di pece si rendono liscio il corpo intero. È importante che non si vada assolutamente oltre una tale impudenza. Se infatti essi non lasciano nulla di intentato, io non lascerò nulla di non detto. Era uno di questi infami che Diogene, con molta abilità pedagogica, biasimò, allorché egli stesso si trovava in vendita come schiavo. Con voce virile disse all'acquirente: «Vieni, giovanotto, comprati un uomo». Con questa espressione ambigua richiamò alla temperanza la lascivia di quel tale. Che degli uomini si rasino e si depilino non è forse una vergogna? Bisogna eliminare tutte queste abitudini funeste degli effeminati, tinture di capelli, cosmetici e coloranti per capigliature grigie, pettinature da donna, accettare la vecchiaia e i capelli bianchi. Essi credono poi di potersi togliere dal capo la vecchiaia, come fa il serpente, dipingendosi e facendosi giovani. Ma anche se riusciranno a fare i furbi con i capelli, non potranno evitare le rughe e comunque non sfuggiranno alla morte facendo i furbi con il tempo. Invero, non vi è nulla di terribile, assolutamente nulla, nel fatto che una persona anziana appaia tale, non potendo nascondere ciò che è. D'altronde, l'uomo, in rapporto alla verità, è tanto più onorabile quanto più si affretta verso la fine, poiché allora ha solo Dio più anziano di sé. Egli, infatti, è l'eterno vegliardo, più vecchio di tutti gli esseri. La profezia lo chiama l'antico dei giorni, e il profeta dice: i capelli del suo capo sono come lana pura. Nessun altro, quindi, dice il Signore, può rendere i capelli bianchi o neri. Come osano dunque questi atei farsi creatori in sfida contro Dio, o piuttosto opporgli tracotante resistenza, snaturando i capelli che egli ha fatto imbianchire? La corona dei vecchi, dice la Scrittura, è la loro lunga esperienza, e la canizie del loro capo è il fiore di tale esperienza. Ed essi invece disonorano la canizie, che è il privilegio della loro età. Non è davvero possibile, assolutamente, che mostri un'anima veritiera colui che ha il capo mentitore. Ma non è così, dice l'Apostolo, che voi avete imparato a conoscere Cristo, se almeno gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti, conformemente alla verità che è in Gesù, a spogliarvi dell'uomo vecchio, Palaios, e della condotta di prima. A spogliarvi dunque non dell'uomo canuto, Polios, ma di quello corrotto dai desideri ingannevoli, e a ringiovanire non con tinture e cosmetici, ma con lo spirito della vostra mente, rivestendo l'uomo nuovo, quello creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Se uno che è uomo si pettina, si rasa per l'eleganza e si mette davanti allo specchio per tagliarsi con cura i capelli, depilarsi e farsi le guance lisce, non si comporta forse da donna? Se uno non li vedesse nudi, li scambierebbe per donne. Infatti, anche se ad essi la moda non consente di portare gioielli d'oro, tuttavia per la loro brama effeminata ricoprono con foglie d'oro le cordicelle e le frange dell'abito, oppure si fanno fare certe palline di quella stessa materia e se le attaccano alle caviglie o le appendono al collo. L'uomo deve avere la barba e non deve rasarsi. Questo è un subdolo inganno di uomini rammolliti, attirati dall'essere donne, bestie anfibie e libidinose, un inganno perfido fatto di fornicazione e di ateismo. Dio infatti ha voluto che la donna fosse di pelle liscia e fosse fiera solo della sua chioma naturale, come il cavallo lo è della sua criniera, e ha invece adornato l'uomo con la barba, come i leoni, rendendolo virile con un petto villoso. Questi sono segni di forza e di autorità. Così egli ha anche abbellito con creste, come fossero elmi, i galli che combattono per i loro pulcini. In verità, Dio attribuisce tanta importanza a questi peli della barba e del petto da ordinare che spuntino negli uomini contemporaneamente al discernimento. E amando oltremodo la gravità del contegno, ha voluto onorare di canuta barba la veneranda nobiltà dell'aspetto. Infatti, la saggezza e i ragionamenti acuti incanutiscono anch'essi per intelligenza e raggiungono la loro piena maturità col tempo. Con la robustezza di una lunga esperienza fortificano la vecchiaia e offrono la canizie come amabile fiore di veneranda saggezza degna di ragionevole fiducia. Questo, dunque, è il segno distintivo dell'uomo, la barba, attraverso cui l'uomo si rivela per ciò che è. Essa è cosa più antica della creazione di Eva ed è il segno della natura superiore dell'uomo. A quest'ultimo Dio decise che si addicesse la pelosità e quindi sparse dei peli su tutto il corpo dell'uomo. L'unica parte liscia e morbida gliela tolse dal lato per farne il ricettacolo del suo seme. Creò la tenera Eva, la donna, come aiuto per la generazione e per la cura della casa. Quello dunque, avendo ceduto ciò che aveva di liscio, rimase uomo e mostra così la sua virilità. A lui è stato assegnato il ruolo attivo, a lei il ruolo passivo. Per natura, infatti, i corpi villosi sono più secchi e più caldi di quelli glabri. Perciò anche i maschi sono più villosi e più caldi delle femmine. Chi è integro di chi è castrato è l'adulto di chi è ancora immaturo. È dunque sacrilegio fare oltraggio alla pelosità, che è il simbolo della natura maschile. L'abbellirsi con la depilazione, mi infiamma questo discorso, se è praticata su uomini è segno di effeminatezza, se è praticata su donne è segno di adulterio. Ed entrambe le cose devono essere espulse il più lontano possibile dalla nostra comunità. «Tutti i capelli del vostro capo sono numerati», dice il Signore, «ma sono numerati anche i peli della barba e di tutto il corpo». Non bisogna quindi assolutamente estirpare, contro l'intenzione di Dio, la pelosità da lui predisposta e numerata per sua volontà. «Non vi rendete conto», dice l'Apostolo, «che Cristo Gesù è in voi? Se sapessimo che Egli dimora in noi, non so se useremmo fargli oltraggio». Anche questo fatto di spalmarsi di pece per la depilazione, ho vergogna di parlare di un'azione così oscena, di piegarsi all'indietro e curvarsi, denudando apertamente quegli organi della natura che non si conviene nominare, esibirsi pubblicamente e mettersi supini, non vergognarsi di fronte a se stessi di contegni vergognosi, assumendo pose indecenti proprio al cospetto della gioventù e in pieno ginnasio, il luogo dove si prova la virtù dei veri uomini, perseguire dunque questa abitudine contraria alla natura, non è forse l'estremo della dissolutezza? Se compiono tali cose in pubblico, certamente non avranno vergogna a fare lo stesso a casa loro davanti a poca gente. L'impudenza che hanno in pubblico testimonia contro di loro la dissolutezza senza freni con cui si comportano in privato. Infatti, colui che rinnega la sua virilità in pieno giorno, è chiaro che di notte si rivela apertamente come un effeminato. «Non vi sarà fornicatrice tra le figlie di Israele», dice il Logos per bocca di Mosè, «e non vi sarà fornicatore tra i figli di Israele». «Ma la pece», dirà qualcuno, «fa bene». «Però getta un sospetto», rispondo io. «Una persona di mente sana, infatti, certamente non vorrebbe apparire un fornicatore se non è malato, e nessuno, volontariamente, desidererebbe fare in modo da suscitare sospetto sulla propria bella immagine». Se Dio ha conosciuto in anticipo quelli che secondo la sua predisposizione ha chiamato, conformemente all'immagine del figlio suo, e secondo il Beato Apostolo li ha prestabiliti affinché egli fosse il primogenito fra molti fratelli, come allora non saranno atei quelli che fanno oltraggio al corpo che è conforme al Signore? Un uomo che voglia essere bello deve adornare ciò che vi è di più bello nell'essere umano, cioè la mente, e deve mostrarla ogni giorno più avvenente. Non sono i peli che bisogna svellere, bensì i desideri.